Marilena stanotte io scendo fino al mare per quello che sai. Ho qualcuno che aspetta giù a riva e un patto di sangue è stretto tra noi. Senza stelle una notte che i ladri, senza luna gli impiccati, e io chiedo conforto e coraggio per questo mio viaggio che faccio per te, mia magnifica perla, o mio angelo, mia sirena, magnifica perla e piccola luna, il diavolo è nascosto con occhi da iena dietro ogni angolo della fortuna. E tengo stretto il pacco di sale, questo carico davvero speciale per quel tipo di molto importante che aspetta giù arriva, lui dipende da me. E il suo oro niente, ed il diamante di lui non risplende, gli ho rubato l'anima e il sangue, ma lui non lo sa e dice di me, mio splendido amico, o mio angelo, mia sirena, magnifica perla e piccola luna, il diavolo è nascosto con occhi da iena dietro ogni angolo della fortuna. Destino, ed il Signore ha indicato il cammino, mani sporche ed anima bianca, e quel che ci manca stanotte verrà dal mare.